Compagni e compagni, già nel titolo di questa iniziativa, La storia dei comunisti, e di questa comunicazione che vi devo fare sulla storia trentennale del Centro Culturale Concetto Marchesi nella storia dei comunisti italiani e non solo, già in questi titoli è contenuta, diciamo, l'impostazione da seguire per spiegare e cercare di far comprendere qual è la genesi, la storia, le caratteristiche, gli obiettivi del nostro centro culturale. La sua nascita, che avvenne proprio nel febbraio di 28 anni fa, e la sua storia sono strettamente intrecciate con le vicende dei comunisti milanesi e della loro organizzazione territoriale. E in particolar modo ai personaggi delle quali vicende sono stati protagonisti durante la Resistenza e nel secondo dopoguerra. Il primo quesito credo che ci dobbiamo porre è perché nell'84 sorse l'esigenza di mettere in piedi un centro culturale a Milano, in un'epoca in cui, insomma, non mancava in città, a differenza di adesso, non mancavano riferimenti politici, di circoli, insomma, dove si discuteva di politica, dove si faceva cultura. Ma possiamo rispondere a questa domanda dicendo che la costituzione del nostro centro nasceva dall'esigenza di avere un ritrovo per la sinistra milanese del Partito Comunista, una sinistra, diciamo, internazionalista, è molto vicina al movimento operaio e alle sue lotte. Tant'è che ricordo che all'inizio degli anni 70 il Corriere della Sera, che stava conducendo una inchiesta, insomma, sui partiti politici milanesi, dedicò una pagina intera, facendo nomi, cognomi, eccetera, intorno a questa che veniva impropriamente definita da costoro come la corrente operaista del Partito Comunista. Dico impropriamente perché è come dire, insomma, per un comunista che l'acqua è bagnata, insomma. E quindi proprio qui a Milano, che è stato il centro, per le sue caratteristiche, per le caratteristiche della città, eccetera, della resistenza antifascista, e in seguito continua ad essere uno dei punti centrali del conflitto fra capitale e lavoro, e quindi del conflitto sociale nel nostro paese, proprio qui a Milano nacque questo centro culturale. Un centro di ritrovo, io preferirei dire, della sinistra comunista, insomma, una sinistra comunista, per i personaggi di cui adesso necessariamente dovrò brevissimamente parlarvi, molto legata a un dirigente nazionale del partito, che fu membro del Comitato di Liberazione Nazionale con Luigi Longo, che fu vice segretario generale del Partito Comunista Italiano con Togliatti. Mi riferisco a Pietro Secchia, che divenne poi anche segretario regionale lombardo del partito, che fu un grande maestro, diciamo, per una genia di comunisti milanesi che diedero un contributo determinante alla lotta di liberazione nazionale e alle lotte sindacali del dopoguerra. E furono questi personaggi tra i fondatori della cooperativa Aurora, cooperativa editrice che è la proprietaria di questi locali e che quindi ospita lo stesso centro culturale Marchesi, che furono appunto fondatori della cooperativa e anche del centro culturale. Ma chi erano queste persone, questi personaggi? Che esperienza hanno avuto nella loro vita di militanti? Che comunisti erano questi qua, insomma? Io credo che per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un breve elenco delle caratteristiche di questi compagni. Intanto vorrei cominciare col compagno Alessandro Vaia, che fu vice comandante generale delle Brigate Internazionali di Spagna, che, come sapete, intervennero in difesa della Repubblica Spagnola. Fu poi capo della piazza d'armi di Milano nei mesi cruciali, insomma, della resistenza tra il 44 e il 45. Tra i fondatori abbiamo poi Giovanni Pesce, il mitico comandante partigiano Visone, che già giovanissimo, addirittura ancora non maggiorenne, partecipò anche lui ai combattimenti in Spagna, tant'è che i compagni che operarono con lui lo chiamavano Janot, perché lui abitava in Francia, usando un nomignolo col quale veniva chiamato in famiglia, insomma. E poi non possiamo dimenticare, ah, ecco, Giovanni Pesce che divenne, come voi sapete, medaglia d'oro alla Resistenza. Poi la sua compagna, Nori Brambilla, la mitica staffetta partigiana milanese, la compagna Stellina Vecchio, moglie di Vaia, partigiana, dirigente sindacale, deputata alla prima legislatura, poi divenuta presidente dell'Associazione Italia-Vietnam. E poi sempre fra i fondatori troviamo comunisti che hanno contribuito e dato un contributo importantissimo alla riscossa operaia del dopoguerra. Voglio qui ricordare Arnaldo Bera, che fu membro della segreteria della federazione e che era responsabile della commissione lavoro di massa e quindi era un po', diciamo, il punto di riferimento per i compagni che operavano nelle organizzazioni sindacali e nella CGIL. E diciamo da questa esperienza poi uscirono quadri notevoli. Voglio ricordare Giuseppe Sacchi, che fu come segretario provinciale della FIUM alla testa della lotta degli elettromeccanici del 63, che rappresentò uno dei primi punti di riscossa operaia nel dopoguerra. Fu deputato al Parlamento della Repubblica. E in quella veste anche uno dei padri dello Statuto dei Lavoratori, quello Statuto dei Lavoratori che viene proprio in questi giorni preso di mira e non solo per l'abrogazione dell'articolo 18 e che fu anche non solo un momento di scontro politico nazionale vittorioso, ma anche, come dire, in parallelo sviluppò, fu aiutata, insomma, in questa legge dalla mobilitazione popolare dei lavoratori. Sempre di questa filiera, diciamo, di compagni e di fondatori, non posso ricordare, insomma, non ricordare Ioni Bagnoli, che questa sera non ha potuto essere qui, insomma, che fu direttrice mitica del metallurgico, il mensile della FIOM, e poi ricoprì incarichi sindacali di varia natura. Saverio Nigretti, che è stato presidente fino alla sua scomparsa qualche mese fa di questo centro, che fu segretario generale dei poligrafici della CGIL e vice segretario della Camera del Lavoro di Milano. Poi voglio ricordare Manlio Pirola, diventato poi il primo presidente comunista della Centrale del Latte, un'azienda che stava andando in crisi, che grazie all'attività di Manlio Pirola, in collegamento con i compagni che operavano nel sindacato interno e degli alimentaristi, insomma, rimise l'azienda in pista in modo produttivo. E poi voglio ricordare Osvaldo Muzzana, che fu segretario generale degli alimentaristi, col quale lavorava la compagna Elisa Milanato, ancora oggi una delle colonne portanti della cooperativa editrice. E poi non posso non ricordare Sergio Ricaldone, che ancora giovanissimo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu fra i fondatori della Federazione Giovanile Comunista e oggi è il nostro militante, il nostro iscritto ed è un compagno dalla grande esperienza e dalla grande conoscenza dei problemi internazionali, dei partiti comunisti, dei movimenti rivoluzionari nel mondo. Ecco, questi furono alcuni dei padri fondatori di questo centro culturale. Naturalmente, e l'ho lasciato in ultimo apposta, insomma, a questo speciale elenco dobbiamo aggiungere Alberto Maria Cavallotti, professor Maria Cavallotti, Alberto Maria che fu il primo presidente del centro culturale, un pediatra di fama internazionale, il dottore dei bambini lo chiamavano in milanese il dottor di Fiulet, anche per la sua, diciamo, propensione a dare un aiuto anche alle famiglie più povere che avevano problemi con i loro bimbi. Alberto Cavallotti, che oltretutto, il sangue non il buon sangue non mente, come si dice, aveva anche un nonno molto illustre, appunto quel Felice Cavallotti, che fu camicia rossa dei mille di Garibaldi e divenne intorno al 1880 uno dei primi deputati di quella che allora si chiamava la sinistra radicale italiana. Stretto intreccio con la storia dei comunisti milanesi, quindi, è del tutto evidente fra il centro culturale Marchesi, anche dalla biografia dei compagni che lo hanno fondato. Ma non solo per questi fatti storici, diciamo. La vita del centro culturale Marchesi si è intrecciata con la vita dei comunisti milanesi, insomma. Perché chi erano questi fondatori del centro culturale? Che tipo di comunisti erano in sostanza? Qual era il loro modo di esaminare la realtà e di vedere e giudicare anche i fatti del mondo? Ma diciamo che essi non furono solo protagonisti per le cose che ho detto, ma furono anche protagonisti per la loro caratteristica di comunisti di un certo tipo, di un duro scontro politico nella Federazione di Milano. Scontro politico che si acuì soprattutto dopo il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, quando l'ala più moderata, diciamo, della federazione, insieme a un gruppo che poi sarebbe diventato il gruppo maggioritario della federazione, cioè i cosiddetti milioristi, milioristi perché la loro filosofia era che il capitalismo poteva essere migliorato, ma non superato, insomma, quindi già da questa impostazione concettuale si determinava una divergenza di fondo con gli altri comunisti della federazione. Appunto, e fu quest'ala che dopo il 20° congresso assunse a pretesto e anche strumentalizzò quel drammatico avvenimento che coinvolgeva il Partito Comunista Russo, lo Sovietico, l'Unione Sovietica medesima e nell'insieme mise in subbuglio tutto il movimento comunista internazionale, usarono questo avvenimento storico per cercare di mettere, e ci riuscirono, in un angolo la componente milanese internazionalista, nonché appunto componente coerentemente vicina alla classe lavoratrice e alla sua lotta di classe. Una componente molto vicina alle lotte per la sua natura intrinseca e per la biografia dei personaggi che vi ho descritto, ma anche per la sua natura internazionalista, per la sua visione internazionalista della sua militanza, tant'è che dopo l'istituzione della cooperativa editrice, fu fondata proprio in questi locali una rivista che si chiamava Interstampa, che ebbe un suo discreto successo e che appunto, come dice il nome stesso della rivista, si occupava anche di problemi internazionali, eccetera, eccetera. Quindi siamo di fronte qui a comunisti, per rispondere chi erano, insomma, questi, in grado di comprendere, secondo il mio punto di vista, insomma, e anche secondo il punto di vista di molti compagni del centro culturale, di comprendere la differenza essenziale fra la critica costruttiva alla prima esperienza di costruzione di uno Stato socialista con la rivoluzione d'ottobre, rispetto alla denigrazione nei fatti di quell'esperienza che portava alcune componenti del Partito Comunista ad accodarsi, diciamo, in particolar modo da parte dei cosiddetti miglioristi, alla stucchevole propaganda dei circoli capitalistici, che invece avevano ben compreso la valenza storica di quella rivoluzione. Tant'è che ancora oggi sono scioccati, dopo 20 anni dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, da quell'esperienza, che in qualsiasi modo la si veda, con tutti i suoi difetti e le sue contraddizioni, ha dimostrato che si può organizzare una società alternativa al sistema capitalistico e quindi senza di loro, cioè senza i capitalisti. Ecco, in generale noi al Centro Marchesi la pensiamo così, in questo modo. Devo dire aiutati in questo anche dalla scelta di utilizzare la metodica marxista per comprendere la storia, indagare nella realtà e per proporre una società alternativa e socialista. In sostanza, permettetemi di usare due metafore per spiegare ancora meglio i due, diciamo, principi teorici da cui parte la nostra considerazione. Primo, che rispetto a quegli avvenimenti, a quell'esperienza, cioè il crollo sostanzialmente del sistema socialista che ruotava intorno all'Unione Sovietica, occorre fare, ecco la metafora, una raccolta differenziata dell'esperienza storica del socialismo e non gettare tutto nella discarica della storia. Anzi, da questo punto di vista siamo anche fortunati, perché siamo venuti dopo questa esperienza o l'abbiamo vissuta insieme e quindi siamo in grado di comprendere gli errori e le cose positive, insomma, che quelli della rivoluzione d'ottobre non sapevano ovviamente, essendo i primi in realtà a intraprendere questo esperimento. L'altra metafora, diciamo, è quella secondo la quale il capitalismo non è l'ultima spiaggia dell'umanità. Insomma, questo è un discrimine importante, perché se uno ritiene che alla fine della fine il capitalismo sia il meglio, con i suoi difetti eccetera, dell'organizzazione sociale, ci sono altri come noi che invece ritengono che, anche sulla base dell'esperienza storica vissuta con tutti i suoi errori e i suoi difetti, che il capitalismo può essere superato. Ecco, questo è un po' quello che significa per noi del Centro Culturale essere marxisti nel 2012, ed è anche per questo che cocciutamente dall'88 al 92, dopo la scomparsa dell'ultimo segretario comunista del PC Alessandro Natta e con l'avvento dei rampanti liquidatori del partito come Occhetto, D'Alema, Veltroni e Fassino, badate bene, sotto la vigile supervisione di Giorgio Napolitano, che era il capo della corrente migliorista, beh, insomma, questi qui hanno praticamente suicidato il PC, il più forte partito comunista dell'Occidente capitalistico. Ecco, noi cocciutamente ci siamo opposti a questo scioglimento e proprio qui, in questi locali dove siamo noi questa sera, abbiamo dato vita con molti altri compagni, insomma, non tutti provenienti da quell'esperienza di cui parlavo, abbiamo dato vita, diciamo, alla cellula progenitrice di quel movimento e di quell'esperienza che poi appunto fu chiamata della rifondazione comunista, che poi, diciamo, dalla quale poi derivò il partito della rifondazione comunista e successivamente del Partito dei Comunisti Italiani e anche, diciamo, dolorosamente, insomma, attraverso queste scissioni della sinistra, ecologia e libertà. Ma questa è storia di oggi, io non voglio qui naturalmente questa sera entrare nel merito di questa vicenda, che sarebbe molto interessante, io credo che metteremo in cantiere anche un dibattito, una discussione, insomma, su questa questione che è molto attuale. Naturalmente in questo essere, in queste scelte, in questo modo di pensare, noi siamo stati aiutati già dalla nascita del Centro Culturale da intellettuali di grande valenza e di grande spessore. Oggi questi qui che cito sono scomparsi, ciononostante io credo che noi dobbiamo essere onorati dall'aver avuto questi intellettuali come soci e frequentatori del centro, che hanno dato veramente un contributo notevole. Ne voglio citare qualcuno, a cominciare da Ludovico Geymonat, epistemologo, filosofo della scienza, che ha scritto quest'opera monumentale che i giovani conoscono, insomma, o dovrebbero conoscere, che è appunto La storia del pensiero filosofico e scientifico. Poi fra i nostri soci vi era il professor Cesare Musatti, un vecchio socialista, figlio di un altro, diciamo, socialista della primora, che fu presidente stimatissimo della Società Italiana di Psicanalisi, autore anche egli di un trattato della psicanalisi. Lui era ferreamente freudiano, in polemica con gli junghiani, ma anche qui non è il caso adesso di addentrarci. Ma io voglio qui ricordare una cosa, un episodio avvenuto proprio qui con Cesare Musatti. E di lui ricordo quando, un anno prima della morte, ci fece qui, nell'ambito di una simpatica e bellissima cerimonia, ci fece dono di una delle prime bandiere rosse dei socialisti dei primi del Novecento. Bandiera che noi conserviamo accuratamente in cassaforte. Poi altri intellettuali collaborarono al Centro Culturale, voglio citare Raffaele De Grada, famoso critico d'arte, Guido Valabrega, storico delle culture medio orientali, Enrica Collotti Pischel, sinologa di fama internazionale. Questi sono, diciamo, quelli che se ne sono andati, ma fortunatamente anche oggi noi possiamo avvalerci e contare del contributo di intellettuali di primo ordine, del calibro di Luigi Pestalozza, grande musicologo, di Aldo Giannulli e Maria Grazia Meriggi, ordinari di storia contemporanea all'Università di Milano e di Bergamo, del professor Gianfranco Berto, lo storico dell'arte, e poi voglio citarli di Guido Oldrini, Mario Vegetti, animatori insieme ad altri compagni dell'Associazione Culturale Marxista, che proprio qui in questi locali opera ed è ospitata. E poi anche del professor Gaspare Jean, che è qui con noi questa sera, insomma, esimio clinico, e che è stato anche commissario straordinario dell'ospedale di Niguarda, il più importante ospedale di Milano dal punto di vista anche delle dimensioni. Quindi, come vedete, il centro culturale è un centro di dichiarato orientamento marxista. Io devo dirvi che certamente è l'unico rimasto in Lombardia in questo tipo di orientamento, è forse uno dei pochissimi esistenti a livello nazionale, non altro a Bari, ma poi di altri non ne ho notizia. Quindi un centro marxista che vuole, attraverso la sua attività, attraverso le sue iniziative, stimolare il dibattito sulle sorti dell'Italia, sulle sorti del mondo in questa fase della globalizzazione, discutere e parlare di arte e di problemi, diciamo, anche di costume sociale, confrontandosi, questo è il punto, e aprendosi a tutti gli orientamenti democratici che si riconoscono nella Costituzione repubblicana, senza esclusione alcuna, se non con un'unica discriminante, l'antifascismo. Ecco, io vado verso la fine di questa mia, diciamo, narrazione. No, ora... narrazione no. Eh? No, narrazione no. Vabbè. È severamente bocciato. Sì, ma in questo caso è proprio una narrazione, mentre nel caso a cui voi fate riferimento è una roba... psichedelica. Ora, ecco, io finisco, non voglio qui parlare di tutte le iniziative del centro culturale, voglio solo dire che esse investiranno in molteplici discipline, dalla storia, non a caso abbiamo qui anche un bel gruppo di giovani storici della facoltà di storia, soprattutto anche in particolare riferimento alla storia della nostra città, abbiamo fatto anche un dibattito interessantissimo sulle 5 giornate di Milano. Parlare di politica, naturalmente, nelle sue diverse sfaccettature, parlare della politica internazionale, dell'economia, appunto, nell'epoca della globalizzazione, e dell'arte, con particolare riferimento alle arti grafiche, figurative, e alla pittura in particolare. Ora, noi vorremmo occuparci, stiamo vedendo come, insomma, perché la cosa è più complicata da un punto di vista, diciamo, operativo, degli strumenti anche tecnici, anche di musica, e quindi in particolar modo della storia della musica, e, diciamo, una sorta di guida all'ascolto della musica, a cominciare dalla musica classica, eccetera. Ecco, voi capite il grande sforzo che si deve mettere in campo per fare tutto questo. E senza aiuti istituzionali, questo è bene che lo sappiamo. almeno una volta qualche la giunta provinciale progressista, insomma, di Milano, qualche patrocinio con qualche piccolo contributo lo dava. Ora non c'è più niente. Primo perché, come sapete, c'è una crisi che coinvolge direttamente gli enti locali, che quindi li mette in condizioni di difficoltà. Ma secondo, anche secondo, come seconda cosa, dal mio punto di vista, anche per l'orientamento nell'epoca del pensiero unico dominante del nostro centro culturale, insomma, che francamente rappresenta una anomalia nel quadro generale milanese. Tutta questa attività è fatta con lavoro volontario e grazie anche alla disponibilità della cooperatrice, della cooperativa editrice Aurora, che ci ospita, e il contributo non certo eccezionale, insomma, oggettivamente non eccezionale, ma essenziale, dei nostri iscritti e dei nostri frequentatori. Ecco, questo è il centro culturale intitolato a un grande intellettuale comunista, Concetto Marchesi, di cui vi parlerà adesso il compagno Bruno Casati, presidente attuale del nostro centro.